scusi signora, mal di testa, prenda subito un cascheut. Il dolore scomparirà rapidamente. Efficace nelle nevralgie e nei dolori reumatici, il cascheut non deprime il cuore. Cascheut. Io. Tu. Eccoci qui, signore e signori, buonasera. Buonasera a tutti, vediamo come andiamo con i nostri volumini del microfono, direi bene. Ma certo. Certo. Quando mai siamo andate male? Vi siete cuccati, ok, il prezzo è giusto, la nostra sigla, tutta, quasi a ripetizione. Perché è bella, ormai fondamentalmente. Vi sarete affezionati ormai, mi sa, a questa sigla. Non pensate più a Eva Zanicchi, ma pensate a noi due. Alle Zanicone. Alle Zanicone, che non sapete nemmeno che faccia abbiamo, forse. Belle Qualcuno facce sicuramente. Sa. Certo. La faccia della verità linguistica. Figuriamoci. Allora. Bene, 14esima puntata dell'Accademia. Ma come gli step di Gesù, le 14 fermate della croce. Erano 14. Non erano 14. La Via Crucis. Sì, dai, ci sono sempre in queste salite, su in colline, montagna. Sì, 14 ce n'è, sì, ce n'è un lì sacco soffre, per le colline. Muore, lì suda. Lì beve l'aceto. Beve il Gatorade. Sì. Come potete sentire, siamo anche un po', come dire, dissacranti, e vabbè, ci vuole. Sì. Ormai abbiamo fatto fare la prima tranche di viaggio nel mondo della linguistica. Della crocifissione. Esatto, ora vi crocifiggiamo. Questa sera sicuramente, perché ci addentriamo in un tema particolare, non troppo conosciuto, però divertente. Ma lo diciamo subito? Io dico una cosa e tu dici l'altra. Io dico coppia. No. Sì, allora dai, facciamolo come lo intendi tu. Perché lei voleva dire un'altra cosa, sì, che vi diciamo che... poi nel corso della trasmissione. Tante ve ne diremo. Quindi rifacciamolo. Io dico coppia. E io dico minima. Vediamo chi di voi lo sa. Intanto però, visto che... siamo così un po' cattivelle, sì. Ci piace divertirci, vi mettiamo il primo pezzo della serata che è inconfondibile. You go. veramente inconfondibile, Cyndi Lauper con Girls Just Want to Have Fun. E sono rimasta sola momentaneamente qui nello studio perché la nostra Nenia è andata a prendere un po' di abbeveraggio per noi assetati, noi due della trasmissione. Quindi lo ridico da sola, coppia minima. L'argomento di questa sera è questo costrutto dal multisfaccettato, se così vogliamo dire, perché è importante dal punto di vista linguistico e dal punto di vista anche sintattico e fonologico. Anzi, io partirei proprio da questa prima, diciamo, distinzione. Poi passiamo invece a quella più legata al mondo della grammatica, della sintassi e del lessico anche. Allora, cari miei, la coppia minima che cos'è? Io vi dico, Maria si sposa con il figlio del maestro che nacque a Vicenza. Oltre ad essere un po' melò, questa frase un po', come dire, datata, antica, un po' da libro cuore, da Franti, insomma, non il gruppo ma il personaggio. Vediamo che è una frase sintatticamente ambigua, ovvero Maria si sposa con il figlio del maestro che nacque a Vicenza. Questa struttura dà luogo appunto a delle ambiguità, perché può corrispondere o a una struttura che dà alla frase significato che la persona che nacque a Vicenza è il figlio del maestro, o a una struttura differente, cioè che la persona che nacque a Vicenza è il maestro. Noi quotidianamente parliamo attraverso frasi che sono sintatticamente ambigue e anche attraverso porzioni di frase, quindi morfemi, che sono fonologicamente ambigui. La V e la F, per esempio, la B e la P. Sono simili graficamente, sono simili anche però dal punto di vista fonetico. E prima però di parlarvi della coppia minima in Bentornata Nenia, in fonologia, ci ascoltiamo un altro pezzetto che direi che con la questione delle coppie ci casca proprio a pennello, perché sono i Bauhaus, questo è Terror Couple, Kill Colonel. Oh, Un salutone a tutti i darkettoni della città di Firenze che ormai hanno sui 55 anni, ma perseverano. Mitici. Sono ancora tutti vestiti così. Dal 1984. E Bauhaus anche, sono vestiti ancora uguali a prima. Eh sì, beh, con tanta eleganza, devo dire. Moltissimo, maestri di stile Bauhaus. Quindi abbandono la regia, parli delle coppie minime e mi tiri fuori questo pezzo. Se invece fossi rimasta qui, questo è quello che avreste ascoltato. Ragazzi, ragazzi! L'avete riconosciuto? Applausi, applausi. Non abbiamo con noi Marco Predolin, non è con noi, purtroppo, non è con noi qui in studio, però ci stava assolutamente il gioco delle coppie, la sigla, perché appunto l'argomento di stasera è questo qui. E come vi avevo promesso prima, parliamo appunto delle coppie minime e della, per iniziare, fonologia. Perché? Perché sono l'essenza in realtà della definizione. Perché la coppia minima è detta generalmente nell'ambito fonologico una coppia di parole di una stessa lingua in cui la differenza si basa solamente su un unico suono e questa differenza è sufficiente a individuare significati diversi. Posso farlo? Posso dirlo? Un dai, esempio? Dai. Pazzo cazzo! Oh, attenzione! Pasta basta! Pasta basta, pasta basta, oppure... Hasta la vista, hasta la pista! Hasta la pista, pista vista! Io stasera sono completamente prosciugata, non ho fantasie, non me ne viene in mente neanche una. Quindi vi farò il solito, insomma, cazziatone. Ecco. Tu cazzi e io faccio gli esempi stupidi. Siamo una coppia. Siamo una coppia alla faccia del minimo, questa è una coppia veramente avantissimo. Allora, coppie minime dell'italiano standard. Fa, va. Per esempio, non ho offeso nessuno, ma è l'imperativo del verbo fare e l'imperativo del verbo andare. Fa con la F e va con la V. Quindi, vedete, c'è questa differenza di fonema. Uno solo, in una parola monosillabica, un verbo in questo caso, il significato cambia completamente perché appunto cambia un solo micro elemento. In una parola monosillabica è un 50%, Cacchio ragazzi, è anche in una coppia minima. Cacchio, avete visto l'esempio pregnante? Brilliamo di brillantezza quest'oggi. Allora, quindi, perché si cioè, ovviamente non è che i linguisti si sono messi lì un bel giorno e hanno detto: oh, sai cosa, iniziamo a scambiare i fonemi nelle parole, quanto ci divertiamo, no? Grulloni belli loro. Si può dire grulloni? Ecco, qualcuno ce lo scriva apposta a wombat@insiberia.net, così tanto lo sapete, non siamo fiorentine, nessuna delle due. Siamo, tra l'altro, questi due giorni non ho aperto la posta, è arrivato qualche logo nuovo? Allora, l'ho aperta io e mi sembra ne siano arrivati diversi, anche per questa settimana, bravissimi tutti, il contest si sta facendo abbastanza serrato. E contest all'ultimo sangue, direi. Contest di sangue. Sì, e sì. A breve, insomma, direi tra poco meno di un mese ormai arriveranno i vincitori e quindi Wombat, Radio Wombat avrà finalmente il suo wombato. Pillino. Ma dicevamo, i linguisti che fanno? Si mettono lì a cambiare l'ordine, scusate, a cambiare i fonemi delle parole? No. Infatti, le coppie libere sono un metodo, sono una prova, anzi, sono il classico metodo per individuare i fonemi di una lingua. E possiamo appunto fare questa prova di coppia minima o detta anche di commutazione, cioè di scambio. Fa? Va, come dicevo prima. Sono interscambiabili i due fonemi? Sì. Però cosa succede quando questi due fonemi sono stati scambiati? Che cambia completamente il significato della parola. Per realizzare questa prova, adesso vi dico una roba difficilissima. Trubekoi, il linguista russo di sangue blu, che nel 1828... Volevo dire che la parte difficile non era il nome. No, è Trubekoi, insomma, vabbè, dai, è abbastanza facile. Si legge come si scrive, quando, no, la cretinata solita che si sente dire. Ha partecipato a un congresso internazionale di linguistica, diventando praticamente uno dei bracci destri di Roman Jakobson. Quindi un altro famoso linguista di cui vi parleremo nel futuro prossimo. E quindi Trubekoi formula questa regola, proprio ve la dico letteralmente, nel 39. Quando due suoni ricorrono nelle medesime posizioni e non possono essere scambiati la sua memoria, fra loro senza ciò mutare il significato delle parole o renderle irriconoscibili, allora questi due suoni sono realizzazioni fonetiche di due diversi fonemi. Quindi sono nell'insieme fonemi, nella loro definizione, che si creano, si pronunciano in maniera diversa. F, V, B, P sono tutti fonemi, però ovviamente in base all'articolazione che noi diamo dell'apparato fonatorio pronunciamo suoni diversi, quindi fonemi diversi. Basta, finito. Avete capito? Ecco. Trubekoi, passo 39, salmo 59, versetto 33. Ecco. E mamma. Quindi, va, cosa facciamo? Beh, io passerei subito un pezzo musicale. Vai, un po' di ristoro. Dobbiamo far partire qualcosa. Vuoi, ti senti più in fase di amore o in fase musicale vera e propria? Fase musicale vera e propria. Wow. Lo sapevo! Pezzo di merda della serata. La vergogna. Ora si respira, hai travolto la mia barriera, una polveriera, con te donne che sei. Tastiera che suoni per le mie mani, luna cui mando i miei aeroplani, stai cambiando i suoni alla mia musica. con me. Vergogna qui all'Accademia della Brusca alle ore 20:01 di questo giovedì sera, alla 14ª puntata. Ebbene sì, ci abbiamo messo 14 puntate per snocciolarvi anche i Pooh con Chi fermerà la musica, che tra l'altro io e Nenia non ci siamo mai soffermate ad ascoltare nella nostra vita, a parte sul ritornello, e abbiamo, come dire, capito che è un pezzo senza pieno di coppie minime, su questo perlomeno. Se ci avete fatto caso, con queste rime che fanno, insomma, ci sono molte assonanze e anche coppie minime. Però è una canzone per niente, come dire, priva, completamente priva di doppi sensi, e soprattutto una canzone non macista. Davvero, hanno scritto veramente uno dei pezzi secondi ai Pooh. Cioè, chi c'è soltanto? Julio Iglesias probabilmente... E Fabio, il modello degli anni 90, non so se te lo ricordi, quello delle copertine dell'Harmony. Ragazzi, allora, sempre nei nostri momenti di, proprio in cui sfociamo nel trash più completo, vi faremo sentire, io l'ho trovato, un disco di Fabio, il modello degli anni 90, quello tutto palestrato, biondo, che parla e canta in maniera molto soave su queste musiche, parlando di appuntamenti amorosi. Wow. È una cosa terribile. Se non fate i compiti, io ve la faccio sentire. Ovviamente se scherza. Se scherza, Trubecoi, dove eravamo rimasti? Ecco, quel pazzo. Quel pazzo furioso di sangue blu, perché era figlio di principi, Trubecoi. Non era non era uno Russia. Qualunque. No, non era uno qualunque. Però a tempi in Russia non era... Era non un era... buon partito. Penso si sia suicidato anche lui, come Majakovskij, come un sacco di altri, insomma, intellettuali e studiosi russi della sua epoca. Vabbè. Pensa. Quindi, chissà, forse perché si era intrippato troppo sulle coppie minime. Quindi, probabilmente. Trubecoi ci dice anche un'altra cosa. Prima di effettuare la prova delle coppie minime tra due suoni, detti anche foni e non toni. ma allora siamo terribili. Toni su di toni. Toni su toni. Mi è venuto in mente subito un pezzo. Vai avanti, vado. Cosa occorre? Occorre assolutamente... oddio, non mi ricordo più. Scusa. No, non mi ricordavo più la parola. Assicurarsi che non ci si trovi di fronte a una coppia sospetta, cioè che queste coppie siano foneticamente molto simili. E, per esempio, un criterio di somiglianza tra due foni può essere la condivisione di tutti i tratti fonetici, tranne uno o due. Ad esempio, P e K condividono, quindi stiamo parlando di, proprio di lettere, se così vogliamo dire, della produzione vocale, quindi i foni. P e K condividono tutti i tratti, consonantico, occlusivo, non sonoro, tranne il tratto di luogo di articolazione, cioè bilabiale. P, se voi pronunciate una P, la fate con la bocca, con le due labbra che si uniscono, interrompendo il flusso del fiato, oppure K, che è invece una velare, perché appunto la facciamo attraverso il contatto della lingua con il vello palatino. Quindi, insomma... Ma che bello! Stasera anche un po' di fonetica. Sì, ci stava. Anche questi aspetti andranno approfonditi. Andranno approfonditi quando? Perché sì, questa era la notizia stavo per farmi sfuggire prima. Allora, abbiamo deciso di prenderci una pausa. Andiamo un po' in menopausa, per favore. Andiamo un po' in vacanza. Andiamo un po' in vacanza. Ma non vogliamo lasciarvi troppo tempo senza la brusca. Abbiamo solo bisogno di una pausa riflessiva perché vogliamo iniziare dei nuovi argomenti. Abbiamo intenzione seriamente di trattarli in maniera un pochino più approfondita e quindi abbiamo bisogno di un po' di tempo perché entrambe lavorando tutti i giorni, tutto il giorno, abbiamo bisogno di collezionare un po' di materiali nuovi, di pezzi nuovi. Sembra una banalità, ma per noi non lo è. E poi anche, insomma, qui si scherza, si ride, si mettono pezzi trash, però quello che comunque vogliamo fare è anche cercare di trasmettervi delle informazioni che sono esatte, possibilmente nuove per voi, quindi cercare di stimolare un interesse nei confronti della lingua, di tutte le lingue, che sono ovviamente la cosa che ci accomuna proprio come esseri viventi. Anche solo per fare un aperitivo del giovedì un po' erudito, che so, esatto, un po' di conoscenze in esatto, più. Quindi... E siccome appunto finora abbiamo fatto quelle che vi raccontavano di tutto un po', a volte sorvolando, a volte attaccando i pipponi maledetti perché magari era l'argomento preferito di una piuttosto che di un'altra, invece vogliamo iniziare a impostare la trasmissione in maniera un pochino più coerente. Effettivamente siamo cresciute, abbiamo un po' imparato a capire come fare, come gestire l'ora di trasmissione, allora abbiamo detto bene, ok, ora abbiamo un po' giocato, giocheremo comunque, ok, tanto, però... Sì. E quindi si pensava, adesso non ho un calendario sotto mano, però prossima settimana ultima puntata della brusca, un paio di settimane di pausa per riflettere e creare un programma nuovo, insomma andiamo praticamente quasi a fare gli scrutini. Finisce il primo quadrimestre della crusca e inizierà il secondo con più o meno fine febbraio, primi di marzo, quindi con la bella stagione si spera. Però questo un bel 30 marzo così là? No? Calcola, sono tre. Però abbiamo tutto febbraio davanti. Scusa, vi abbiamo imbrogliati. Che fava, qui fava ci sta, altro che va. Sì, va bene, quello poi lo decideremo. Comunque, insomma, ci risentiremo giovedì prossimo. 2 marzo. 2 marzo. Tre mi risiedo. Deciso, e vi faremo ascoltare Lucio Dalla, perché in quei giorni, insomma, lo sapete che canzone metteremo. Bene, adesso metto però un pezzo musicale. Sì, non ne posso più, mi sento di darvi questo. Non è quello che state pensando. Non siamo mica così pazze. P-A-V è il nome di un treno che impiegherà meno. P per collegare Lione a Torino è magnifico TAV, irreversibile, ma inabitabile, e un paradiso diventa un inferno per colpa del TAV. Pressoché inutile, ma inevitabile, perché è già stato stanziato un bottino e col cacchio che adesso si possa fermare, che ne dica il notar, costa miliardi ma fa risparmiare. Con il legno, per fare un TAV ci vuole il legno, per fare il legno si taglia l'albero, se tagli l'albero si toglie il seme, si toglie il seme, si toglie il frutto, si toglie il frutto, si toglie il fiore, si toglie il monte, si toglie tutto, per fare un TAV si toglie tutto. Aggiungi un posto a TAV che c'è un amico in più, se sposti un po' la seggiola stai comodo anche tu. Gli amici a questo servono a far la galleria, sorridi al nuovo 'ndrangheto, non farlo andare via, dividi il sindacato, ora doppia la galleria. Fai il treno dei desideri, dei miei pensieri all'incontrario e vai. Che bella, eccoli. Veramente bellissima. Anche qui, insomma, di TAV, TAV ce n'è una sola. Non è vero, ce ne sono tantissime. No, ahimè, bastardi, non c'è verso. Si ricade sempre lì a costruire, a costruire. A la bucare. Gente ancora brucia per recuperare un permesso di soggiorno. Vergogna. Ecco, momento sociale, vabbè, ci voleva. Una sega, ma vabbè. Come si dice, va. Bocca. Altro che, e poi hai capito, la gente fa i soliti discorsi, la casa prima gli italiani, oddio. Io ci tengo a ricordarlo che vengo da un paesino in provincia di Ferrara che è governato dalla Lega Nord. Governato, il comune, insomma, sono già due generazioni di leghisti, tra l'altro vicino a Cona, dove era successa quella dove sì, avevano fatto le barricate. Pensa. Per non accogliere tipo 11 profughi, di cui tipo 7 donne e 4 bambini, una cosa sì, del genere, perché gli rubano il lavoro, loro sono vongolari, certo. Sì. E sì, gli sì, rubano il lavoro. Sì, poi sono quelli che mandano i messaggi, dona anche tu 2 euro alla protezione civile per costruire chissà quali cazzo di puttanate, esatto, che mentre, non verranno mai fatte. Mentre giù in Abruzzo. Però coscienza pulita, si dorme, esatto, felici e tutto va bene. E li conosciamo bene noi quelli della protezione civile dalle mie parti, perché col terremoto sono stati a mangiare maccheroni con ragù per un paio d'anni. Non tutti ovviamente, ma una buona parte. Figuriamoci. Scusate lo sfogo. Che merda, bene. Tanto è tutto una merda, si sa, e quindi poi vi lamentate anche se magari mettiamo musica di merda. Quello Invece serve, perché è catartico, è catartico. I Pooh sono catartici. Bene, bene. Volevo aggiungere una piccola curiosità, che anch'essa verrà probabilmente approfondita in futuro. Si parlava di coppie minime fonologiche e tu hai accennato alle coppie minime sintattiche, giusto? Queste per l'appunto si dividono in sintattiche e lessicali. Quindi, per esempio, un esempio di coppia minima lessicale può essere... tocca il tavolo, tocca il banco, oppure tocca il libro, ok? Esatto. Si modifica semplicemente una parola, praticamente cambia solo a livello semantico, ok? Cioè cambia la parola, quindi cambia la cosa che tu stai toccando o colorando, eccetera. Cambia la parola intesa come noi la conosciamo. Coppia minima sintattica invece... si va a modificare un elemento in diversi modi, per forma, per esempio, mangialo, mangiala, e quindi vado a modificare che cosa? L'oggetto mangiato, se femminile o maschile, per esempio, quindi mangialo il kaki. Chissà perché mi fa va cachi. Mangiala la banana. Ok. Ordine invece si va un po' più nello specifico, perché poi si gioca molto spesso col sintagmi, e quindi, che so, saluta l'uomo alla finestra, saluta la donna, oppure l'uomo saluta la donna alla finestra. C'è sono le mie preferite. Sì, liberamente giochi coi sintagmi, a te che piace giocare tanto coi sintagmi. Non farei altro. mi ti immagino da bambina che giochi con gli alberelli e le parentesi quadre. No, non lo facevo, lo giuro. Anziché coi cubotti, quelli con le letterine e comporre il nomenina. No, però giocavo un sacco a Scarabeo, per cui ci sta che fosse inventando parole non conosciute. Ci sta, certo. E poi, questa era quella di ordine, poi abbiamo la coppia minima di presenza-assenza. Questa è, a me piace molto questa, perché poi porta delle cose un po' più particolari, anche quasi che ti fanno sobbalzare, di wow, scopri anche pur sapendo la lingua, perché chiaramente poi la differenza di queste coppie minime la comprende chi realmente è padrone di una lingua. E qua? Qui poi, insomma... Ci sarebbe un secondo, diciamo... ciclo annuale. Esatto, qua una digressione lunga sulla lingua dei segni, sulla sordità soprattutto. E... Sì, lì ci si cascherà per forza. Quella di presenza-assenza, per esempio, una carina che mi piace sempre citare è: martedì mangio sushi, il martedì mangio sushi. Chiaramente si apre un'enormità, un divario... Apri di gelo. Sono stradifferenti, perché il martedì mangio sushi significa che tutti i martedì io vado a mangiare il sushi, mentre martedì mangio sushi significa che questo martedì mangerò sushi, poi dopo no, o chi lo sa. Quindi questa, per esempio, è buffa, perché in realtà, perché la differenza è quel piccolo articoletto che noi tutti sottovalutiamo, spesso non scriviamo quando si insegna ai bambini, mela, mela, no, è la mela, cioè diamo importanza anche a questi poveri disgraziati di articoli, esatto, esatto. Ci sono, usiamo. E quindi ecco, questa era carina. Poi ce n'è di sostituzione, ecco, con quelle di sostituzione ci si può giocare parecchio, perché comunque si va a sostituire tutti quegli elementi che rendono interessante una frase, una opposizione, tipo Luca disegna un cane e ride. Luca disegna un cane che ride, quindi chi è che ride? Nella prima è Luca, nella seconda è il cane. Sono, insomma, sono carine, sono divertenti, anche, possono diventare anche un gioco volendo. Poi c'è chi invece ne ha fatto un metodo, una super professione, un metodo riabilitativo molto interessante, innovativo, e, insomma, sono carine. Intanto noi ci si sta giocando così alla radio, ma sono veramente un metodo. Un'altra di sostituzione carina che fanno sempre in questo metodo è: Tommy ha un cane, Tommy è un cane. E quando poi un bambino si trova a disegnare per mostrare di aver compreso queste piccole coppie, vengono fuori delle cose delle divertenti. Cose carine, carine. Mi ricordo una bimba, una delle frasi di una coppia era... Martina disegna con la mamma, Martina disegna con la penna, E nella prima c'era Martina che disegnava con la penna, nella seconda c'era la bambina che ha preso la mamma e la usava come matita. Questo è bellissimo. Ma questa era un'illustrazione di un libro? No, no, questa è una bambina con la quale ho lavorato. Che bello. No, ma chiamiamola la fantasia. Sì, sì, però effettivamente è un metodo in cui poi tutto ci sta, quindi... E quindi parte il gioco e... Poi c'è, che so, cade dal tetto, cade il tetto. E anche questa è buffa, quando la devi vedere in sotto forma di disegno, ne vedi delle belle. Forse la copertina di questa settimana, la nostra immagine del podcast, potrebbe proprio essere uno di questi disegni. Oh mamma. Se lo troviamo... Sarà dura. Sarà dura. E insomma, questa è un po' la coppia minima quando poi si ha a che fare con un livello lessicale o sintattico, ecco. E quindi che facciamo? Io avrei non un libro, ma una persona da citare di cui dovreste leggere tutto per una delle prossime puntate. Eh sì. E quindi, sì. Però... Che la super... La super lei. Però... Una fionda. Beh, ma è meglio una fionda che una pistola, no? Un mattone. E i libri indo ce l'hai? I libri? Ah, ma ce l'ho tutti qua ce l'ho! E che ce fai con tutta sta roba? Ce lo so io. Ce lo so io. Ce lo so io. Anche Bruna Radelli ce lo sapeva, che cosa ci avrebbe fatto. Con... Chi è Bruna Radelli? Infatti non riusciremo a consigliarvi un libro suo, perché per quanto lei si sia concentrata su un argomento molto particolare che c'entra ovviamente con le coppie minime, anzi è lei la pioniera delle coppie minime, voi scrivete Bruna Radelli su Google, sul motore di ricerca, e andatevi a leggere una delle tantissime dispense gratis messe in circolazione appunto nel web di Bruna Radelli, che era... una docente universitaria. Sì, ha fatto di Ca' Foscari. Anche sì, qui in Italia sì, ha lavorato alla Ca' Foscari, è stata linguistica, docente universitaria, glottologa sì. forte. In Sud America sì, ha fatto tantissime altre cose, comunque sempre inerenti alla linguistica, grosso modo. Diciamo il libro più carino, dai quello più bello di tutti, Nicola vuole le virgole. Dai, lo diciamo. Sì, è la stesura di lavori fatti sotto logogenia, che è questo metodo che utilizza per appunto le coppie minime, e praticamente ha fatto la stesura dei lavori con i ragazzi con cui ha messo in pratica questo metodo. Sono 4-5 ragazzi, non so, e uno di questi, Nicola, ha scoperto per la prima volta l'utilizzo della virgola e quanto fosse quanto cambiasse il significato delle varie frasi. Rimase veramente stupito, allora disse sì, voglio ancora virgola, insomma gli era piaciuta questa nuova scoperta. In generale il libro è molto interessante, tutta la premessa e la stesura del lavoro vero e proprio, perché è proprio la trascrizione dei quaderni di lavoro, è molto interessante. E poi ovviamente faremo, secondo me si potrebbe fare una puntata quando ci ritroviamo sulla logogenia, sul metodo e su che cos'è, perché è il connubio perfetto, è proprio la messa in pratica di tutta quella teoria linguistica che chi ha studiato all'università lingue, lettere, scienze della comunicazione e quant'altro si è trovato appunto a doversi sorbire. Però in realtà la Radelli ha dato un'applicazione proprio reale alle regole e soprattutto a quello che è il concetto della grammatica universale e generativa. Era più o meno quello che poi mancava nell'ambito dell'educazione dei sordi, che non si va a sovrapporre né a sostituire alla logopedia, sono due attività completamente differenti, ognuna è indispensabile. E sì, questo a volte genera un po' di incomprensioni, equivoci, sì, però effettivamente sono due cose completamente diverse, e indispensabili entrambe, ci tengo a sottolinearlo. Quindi logopediste, non incazzatevi, forza. Ecco, esatto, siete anzi. Fenomenali e fondamentali anche voi. Anzi, sarebbe carina, tipo, è carino uno scambio un po'... Sarebbe bello. Per dire, sì. Un giorno il logogenista impara la logopedia e il logopedista impara un po' di logogenia. Io penso che il primo a scappare potrebbe essere il logopedista, senza nulla togliere, per carità. È perché sono metodi completamente diversi. Tant'è vero che il logopedista, se non sbaglio, studia all'università un ramo di medicina. Sì, il logogenista sì. Studia... a lettere, per cui studia linguistica, sì sì, esatto, certo, è un'altra po'... impostazione, però è anche vero che non sì, vedo l'ora non che arrivi il coniugarsi del, non so, dell'igienista dentale con la critica letteraria di Unamuno, non lo so, queste cose sarebbe fantastico. Non è che mentre ti trapana i denti, che ti sta facendo la pulizia, ti parla di Niebla e di Unamuno e di tutta la fase della letteratura basca spagnola dei primi del Novecento, per dire. Wow. Ma, i fratelli Machado. Proponiamolo. Ok, corsi di laurea a Firenze, Università di Firenze, ma anche di Pisa. Sì, alla manca normale. Questo. Questa era la chiosa della... della serata, però io la farei risentire. Di che cosa abbiamo parlato stasera? Io la farei risentire prima di salutarci seriamente in attesa di un'autodate con 8 Hertz. Io studio ci si balla sopra la breakdown. Piroette in studio Wombat. È finita. Ma stava per ripartire, ci siamo fatte prendere un po' la mano. Oddio, sì. Benissimo. Quindi, ciao Marco Predolin. 8:26, lasciamo il campo a Naoto. A Naoto Date, quando arriva, perché anche lui sta tornando dal lavoro. E con l'ATAF di Firenze, signori. Signorini, mamma mia. Che dire, facciamo che una coppia minima. ATAF Fata. No, non è proprio una coppia minima. Un anagramma. Ma un'altra bella puntata su anagrammi e giochini. A me esce il sangue dalle orecchie. Con l'anagramma proprio mi brucio definitivamente gli ultimi strati di mielina che mi sono rimasti intatti. Stai raccontando questa cosa a una persona che ha cercato di risolvere un rebus per 3 giorni interi, quasi senza dormirci. E la soluzione era roba che scotta. No! Raccontaci come era disegnato. Molto brevemente, c'era Ro, okay. Uno spartito di Bach, una E e un prete, S e un prete, la cotta, no! L'abito, wow, avete capito? Geniale, e ovviamente meglio di quelli del vernacoliere. Nel Sardelli. Chissà se ci ascolta Federico Maria Sardelli, che è un grande appassionato di linguistica, chissà, ci farebbe piacere saperlo, se ci sei, batti un colpo di cane gonfio. Noi a casa ricordiamo sempre con tanta enfasi amore quello, non il mi ricordo PDF. Nemmeno come era, anche, no, però non possiamo dirlo. Sì. Quello che, allora la soluzione era Tapinassi Moreno, chiaramente c'era tipo Tapinassi Moreno. Ed era tipo un nome, un cognome improponibile, Tapinassi Moreno. Questa è passata io la storia. Me ne ricordo un altro così, con il disegno di un uomo sulla sessantina, un po' contadinotto, tutto rubicondo, e la soluzione anche lì era tipo Bambagioni Gino, una cosa sì, del genere. Sì, si fa una rubrichina con i facciamo la rubrica vocali. Comunque, se ha visto che a breve prenderemo una piccola pausa per appunto dare una nuova infornata alla trasmissione, scriveteci se avete argomenti, particolari ingiurie, disquisizioni, insomma, che volete portare avanti, e volete minacciarci di morte, a postawombat@insiberia.net. Ma anche se non siete d'accordo con quello che dice Chomsky. E le solite cose, wombat.noblogs.org è la nostra casa, il sito, twitter.com/radiowombatfee e Facebook cercate radio-wombat-firenze. Io invece vorrei sottolineare quello che accadrà sabato 28 gennaio alle ore 16 in piazza San Marco. C'è il corteo di lotta per la casa, per tutto quello che sta succedendo, per, dopo che c'è stata l'assemblea cittadina il 20 martedì, se non erro, sì, martedì alle 18 ci sarà questo corteo per rifugiati, lotta per la casa, mettono su insomma questo modo di farsi vedere e sentire in piazza per far capire che non è tutto come dicono gli altri. Bene, quindi ci vedremo probabilmente sabato in piazza. Esattamente, anche soltanto per curiosità, per capire che cosa sta succedendo sul serio, per sentire un'altra voce che comunque è molto importante a Firenze, nella città. Eh sì, perché comunque sono tanti anni che danno, diciamo, una risposta diversa e anche un po' fastidiosa agli orecchi di qualcuno, però sì, importante, insomma. Bene. Bene. Allora ci vediamo sabato alle 16 in piazza San Marco. E che dire, basta. Con un po' di rabbia dentro, per favore. Esatto. Un po' di rabbia, non troppa, perché poi ci si ammala, ma un po' di rabbia, bisogna incazzarsi. Di quella genuina, sana. Sì, sì. Bene, allora okay, un bacio a tutti, un bacione, a tutti, saluti, pezzo, baci, non ve lo Vladimiria so nemmeno raccontare, tanto vai, un pezzo serio, buttalo, pure, vai, a giovedì prossimo, amigos. Base up the track a little bit, cause I want to hear that boops, boops, you know what I'm saying? Yeah, yeah, you know the business, common sense, so with the daylight, get all them playoffs, we the rhyme sayers, huh. That's the business. Ha. Go do it like this. Getting it hot. Like that Chicago's. I speak the vine of God theories, no need to be hot. Always exhale the facts, cause I don't inhale a lot. Play the greater man's game to bounce off my losses. So I could earn the acres, the houses, yeah, the horses. Huh. Of course, it's much greater than your Benz or your Lex. The engine to my comprehension is just too complex. Much too complex. Effects be live like DOS, making moves down south to avoid the chaos. I never flaunt the coin, cause dime getters be gazing. They call me Luther Van, they say my style is so amazing. I'm phasing those who supposed to have the last laughter, cause even when I'm gone, I'm reappearing in the after. I have to send respects to real money makers. Do not connect us with those champagne sipping money fakers. Chase the quarter pound with spice from Chi-Town. Now what that prove? You're so full, you can't even move. Cause I'm the D to the O, the V to the E. And can another brother cook these delicacies? Well, I'm the P-L-U, the G to the 1. Walk around the planet Earth making money, having fun. And I'm the C to the O, double M-O-N. I sit and think with a drink about how I'm gonna win. I'm the C to the O, double M-O-N. I sit and think with a drink. Do you want to be an MC? Or do you want to serve? Do you want to be dope? Or do you want to deal it? Fabricated acrylic, I feel it. I'm the style molester. I do a show, get extra peas like the lost professor. In fact, I get my hoes in Tessa. Peep game like a refa. Re-install controller, my Desta. Knee in the besta. 3 out of 5. Whip anybody ass in NBA. Interrompo un attimo il pezzo per dire che è arrivato un autodate. E è triste perché De Brusche se ne vanno un paio di settimane. Intanto sta sgranocchiando le patatine. Io non so se credergli. I thought I lost my erection, but then I got it back with the resurrection. Blessings upon Ron's old man, who called him a traitor? Huh? Vic Constantinus, nigga styles, I predict I'm the C to the O, double M-O-N. I sit and think with a drink about how I'm gonna win. And I'm the D to the O, the V to the E. Yeah. And can't no other brother cook these delicacies. Well, I'm the P-L-U, the G to the 1. Walk around the planet Earth, making money, having fun. Walk around the planet Earth, making money, having fun. Walk around the planet Earth, making money, having fun. I'm the most from the coast of the eastern flame, dropping more knowledge than litter on the New York pave. It's me, wonder why, and the place to be, certified as superior MC. While others explore to make it hardcore, I make it hard for whack MCs to even step inside the door. Cause these kids is rhyming sometimey, and when we get the racing on the mic, they line up to see the lyrical killing with stained eagles on the ceiling. My rhymes escalates like black death rates over musical plates, being played as the rule. Kids kids thinking, step into the soul, you label fools who claims to drop jewels, but for now you do the catching. I don't worry on what crew you run or what section of earth you reside. You're not even a man, so I don't deem it mandatory taking your pride. But I will, cause my man says so for the light. You cry keeping it real, yet you should try keeping it right. That's understanding microphone mathematics. He leaves the currency in temporary world status. And when one shows he posed threat to this one will make that one into none. Simple equation, zero. You shouldn't play a hero if you can't stand strong like the island I'm from. Now I'm the B-L-U, the G to the one. Walk around the planet Earth making money, having fun. And I'm the C to the O-double-M-O-N. I sit and think with a drink about how I'm going to win. And I'm the D to the O, the V to the E. And can another brother cook these delicacies? See, can another brother cook these delicacies? See, can another brother cook these delicacies? That's how I'm supposed to do my thing, huh? Like, triple it. All right. That's how we do it all the way from Strong Island to Chicago, that type of freestyle flow. Yeah, it's fluent. Ain't even a flow no more. Ha. And to my Kenny Calhoun, you know he non-stop. Yo, that girl in D, yo, she's non-stop. And to that crew Camp Flow, you know they non-stop. And to that nigga Pop Life, yo, he's non-stop. And to my cousin Fudd Love, you know he non-stop. My brother Lucky and Perk, yo, they non-stop. And to my man Joe Buck, you know he non-stop. And my man Extra P, yo, he's non-stop. And my man Mike Devine, you know he non-stop. That kid Paul, baby Paul, yo, he's non-stop. And to the Jazzy Fat Nasties, yo, you non-stop. And my people's Beat Miners, man, they non-stop. And to my man Mr. Bug, you know you're non-stop. And hey, yo, Light Dro, yo, he's non-stop. And to my Dean the Green, yo, you're non-stop. And to my man Prince Paul, yo, he's non-stop. And to that man